Terza parte di Rock Legends, come sempre Gianluca al microfono, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stasera ospiti i Cani. Con voi e con loro ascolteremo 6 brani del disco Rock a Beast, come ad esempio quello che abbiamo ascoltato, il titolo? Gaccia della Iena. Il titolo non vuol dire fondamentalmente niente. Nella vita e nella musica ci vuole un po' di non senso ogni tanto. Classico brano rock che grazie agli è come dire fuck yeah o hey hey e robe simili, rock and roll cosparso di queste cose tipo hey baby monta sul mio Cadillac hey, e robe simili. Parla di fare un bel macello e grazie agli è, insomma. Ricordo che uscirà tra un mese il video su questa canzone. Bene. Il nostro primo video promozionale girato da Blake Farber, che è un regista quindi newyorkese. Tutti su YouTube poi. Beh, su YouTube, speriamo anche su qualche TV. Noi ci proviamo. TV, insomma, ecco. Vediamo insomma cosa, se viene accettato il video. La vostra esperienza nello studio di registrazione e quali idee musicali che hanno poi realizzato e dato vita a questo disco? Allora, l'esperienza in studio è stata una bella esperienza costruttiva, ci ha fatto capire dove erano i nostri limiti, fino a dove potevamo arrivare e dove potevamo puntare. E poi diciamo che grazie a Livio, che lui è il nostro arrangiatore di fiducia. Gli spio, grazie. Scusa. No, vabbè, lui ha dato una grossa spinta, una grossa mano a me allo studio. Lo studio ha insegnato molto, sono molto autocritico nell'arrangiare i Cani. E nell'assemblamento delle canzoni l'autocritica è la cosa essenziale per poi raggiungere dei risultati migliori. Sto già lavorando assieme ai ragazzi, ovviamente, a dei brani nuovi che da questa esperienza saranno ancora più rock a beast. Poi volevo ricordare e volevo ringraziare Matteo, il ragazzo che ci ha registrato del Raptor Studio, nonché bassista di Dufresne. Lui ha fatto un grandissimo lavoro, ha capito benissimo quello che volevamo fare con questo disco. Volevamo una produzione un po' più pulita rispetto a quello che è il solito cliché del nostro genere, e lui ci ha azzeccato in pieno, infatti siamo soddisfatti. La prossima canzone per chi ci ascolta? Pro Smoker, è un inno al fumatore. Esatto. All right, people, listen to me. I wanna tell you a story. It's a story about me. I like country grass. I like injuring sex. I shoot away and leave. Cause I'm nicotine rocker. So I'm proud smoker. Come on. Yes, I'm only one. Just a field to breathe. In studio ancora con i cani, recensioni varie, quali le più interessanti e cosa dicono del vostro album? Recensioni ce ne sono circa una decina quando è uscito l'album per ora, perché è l'uscita del 24. Siamo ancora ad aspettare le prossime, comunque le più interessanti. C'è qualcuno che forse non ha sentito tutte le canzoni, ci dà addirittura del British Heavy Metal. Qualcun altro che mi dice... Forse per l'influenza di Motorhead, sì, magari. Ma l'influenza è più dovuta un po' al timbro della voce. Se si ascoltano bene i brani, cioè non si può attribuire un'influenza vera e propria di Motorhead, anche perché arrangiando io i brani, avendo 4 dischi a casa di Motorhead, credo... Non penso sia proprio... Comunque l'album è appena uscito, le recensioni sono ancora poche, ma quelle poche che ci sono buone. Piace il tipo di registrazione, pulito, un po' fuori dai cliché. Diciamo che... È vario, il disco è qualcuno, quello che ci azzeccano di più dicono che è vario, quindi si sente l'influenza Cib, il suo amore per un po' il glam, questo e quello. Un po' quello che ascolto io, un po' quello che ascolta il Joker. Però pur essendo un genere che ormai ha già detto tanto, il rock secondo noi e secondo anche chi ci ha recensito risulta abbastanza fresco, abbastanza moderno, fuori dal canone, dal tipico cliché degli anni 80. Prossima track, Too Sexy for My Pants. Noi torniamo tra poco per la quarta parte di Rock Legends con i cani. Voi restate sempre su Radio RCS.